Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi parlo di un libro che ci introduce a un tema del quale si parla molto spesso, forse più sui giornali che non nel dibattito politico, anzi nel dibattito elettorale ancora questo tema non è granché entrato, è il tema della cultura, della politica culturale, dei finanziamenti alla cultura che passano soprattutto dai soggetti pubblici, lo Stato e i comuni che stanno tagliando molto fortemente, se non ferocemente, anche questo settore. E allora su questo tema un'autentica provocazione è il libro di quattro studiosi di lingua tedesca, uno di loro è svizzero, gli altri sono appunto tedeschi, che sono Dieter Hasselbach, Armin Klein, Pius Knüsel e Stefan Opitz, che hanno messo in subbuglio il mondo culturale soprattutto di lingua tedesca, ma poi l'eco si è estesa in altri paesi, con un libro dal titolo volutamente brutale, Kulturinfarkt, l'infarto culturale, sottotitolo, anche qui la tesi è drastica, azzerare i fondi pubblici per far rinascere la cultura, è pubblicato da Marsilio, 268 pagine, 18 euro ed è tradotto da Melissa Maggioni. Il libro rappresenta una critica molto severa all'attuale sistema di finanziamento, ripeto, soprattutto pubblico della cultura. Si parla molto dell'esperienza tedesca, austriaca, svizzera, ma il dibattito è universale e le considerazioni fatte dai quattro autori si applicano a tutti, compresa l'Italia. Del resto il libro prende anche le mosse da un famoso articolo, anch'esso volutamente provocatorio, che aveva pubblicato Alessandro Baricco, nel quale lo scrittore sosteneva la stessa tesi, l'inutilità di dare soldi pubblici alla cultura e invece di distribuire quei soldi alle scuole. Per i quattro autori il sistema non funziona più, è troppo costoso, favorisce soltanto i percettori dei contributi pubblici, non bada alle esigenze autentiche dei cittadini e soprattutto non ha favorito una maggiore democratizzazione della cultura, visto che i consumi culturali alla fine rimangono appannaggio delle stesse classi socio-economiche di livello medio-alto. Insomma, secondo i quattro autori, il fallimento è totale su tutta la linea ed è soprattutto determinato dal pregiudizio paradossale che soltanto l'arte finanziata sia libera, perché quella che non è finanziata si dovrebbe basare sul successo del pubblico e quindi non sarebbe una vera e propria arte, ma cadrebbe nell'intrattenimento, una parola che fa alzare il sopracciglio a molti esperti e soprattutto a tutti gli interessati, cioè alle lobby che ricevono denaro pubblico che, come dicevo prima, diventa sempre meno. Insomma, il dibattito, come sentite, non è soltanto italiano e il libro offre, ripeto, delle osservazioni controcorrente sulle quali sentiamo adesso uno degli autori, lo svizzero Pius Knüsel, che è un autore particolarmente interessante perché lui stesso è stato per molti anni responsabile delle sponsorizzazioni culturali di una grande banca svizzera e poi ha diretto per 10 anni Pro Helvetia, che è l'agenzia pubblica del governo elvetico che appunto distribuisce finanziamenti alle attività culturali. Buongiorno a Pius Knüsel. Good morning. Pius Knüsel, secondo voi il rischio dell'infarto culturale dipende soltanto da ragioni economiche o ci sono ragioni sostanziali che spiegano questo rischio? We four authors of the book Noi quattro autori del libro riteniamo che ci siano due ragioni per un possibile infarto nel sistema culturale. La prima è una ragione economica. Il sistema culturale ha avuto una grande espansione negli ultimi 30 o 40 anni. Negli anni 70 l'idea diffusa era che fosse necessario fornire un'offerta più ricca e quantitativamente più ampia, in modo da raggiungere la gente e dare a ciascuno la propria cultura e la propria arte. I sistemi sono cresciuti e sono diventati molto costosi e in molti paesi, che oggi si trovano sull'orlo del baratro e hanno enormi debiti e problemi di budget, questo sistema culturale è diventato troppo costoso. La seconda è una ragione più culturale ed è quella che ci ha spinto a scrivere questo libro. Si tratta di una ragione di tipo sociale. Questo sistema, che continua a seguire schemi che sono stati inventati negli anni Ottanta, sta ormai perdendo per strada le nuove generazioni. Le giovani generazioni si sono create le proprie espressioni artistiche e culturali e oggi non seguono i loro genitori o i loro nonni all'opera, a teatro o ai concerti di musica classica. Quindi il sistema, per come si è sviluppato e per come viene ancora sostenuto politicamente nella maggior parte dei paesi europei, è un sistema delle vecchie generazioni e noi ci chiediamo dove siano i giovani. Nel vostro libro voi sottolineate il paradosso dell'Europa che spende più di tutti gli altri paesi nel campo culturale ma che è assente dai mercati internazionali della cultura. Come si spiega questo fenomeno? La cultura europea in generale è contraddistinta da una particolare divisione, quella tra la sfera della vera cultura e arte di alto livello e il campo commerciale della cultura e dell'arte. Da nessuna parte al mondo questa divisione è così forte e netta come lo è in Europa. Quindi, anche se tu sei un artista, come tutti gli artisti, dipendi dai sussidi statali, dipendi dai finanziamenti dello Stato, o viceversa, sei un imprenditore commerciale, e allora sei uno dei pochi artisti che si guadagna da vivere vendendo i propri prodotti artistici. Penso che questa divisione risalga alla filosofia tedesca degli anni 50, quando arrivò la cultura pop in Europa, e si iniziò a pensare che tutto quello che arrivava dall'America avrebbe finito per distruggere la cultura europea. Questa divisione è qualcosa che spinge la politica culturale europea a una protezione ancora più ampia delle tradizioni culturali. Ma se osserviamo la cosa da una prospettiva mondiale, vediamo che la cultura europea non trova spazio da nessuna parte, c'è solo in Europa. Invece i cinesi, gli africani e i latinoamericani guardano soprattutto film americani e ascoltano musica americana. È sempre cultura popolare e solo in rari casi si tratta di opera europea o letteratura europea. Questo è triste in primo luogo perché ha fatto in modo che l'influenza americana sul mondo sia cresciuta e oggi sia enorme. In secondo luogo ci spinge a domandarci cosa possiamo fare per incrementare l'industria culturale europea. European culture industry. Qui c'è un altro paradosso, perché voi scrivete che oggi la cultura non è più molto interessante per i politici. D'altra parte, invece, sui giornali e sui media assistiamo a continui dibattiti sul tema del finanziamento della cultura. Yes, I guess we have a complex phenomenon. On the one hand side we have the Sì, penso che abbiamo un fenomeno complesso. Da una parte c'è il settore culturale che viene finanziato da sussidi pubblici negli stati europei e che chiede sempre più sostegni e si lamenta dei tagli nel budget che vengono fatti ogni anno o del fatto che in generale il budget sia molto modesto. Dall'altra parte abbiamo il mondo politico che per 20 anni, e nel nord Europa perlomeno negli anni 80 e 90, è stato molto attivo nel settore culturale e molto attento nel cercare di risolvere problemi culturali e nello sviluppo di infrastrutture nel mondo culturale. Allo stesso tempo è emerso che offrendo più cultura non si vincono le elezioni. In qualche modo viene considerato sufficiente il fatto che oggi abbiamo il triplo dei musei che avevamo negli anni 70 o all'inizio degli anni 80 e il triplo delle sale da concerto di musica classica rispetto a 40 anni fa. Quindi questa esigenza, che veniva considerata un problema sociale, si ritiene che oggi sia completamente soddisfatta. E così la politica e i politici hanno iniziato ad allontanarsene per cercare di risolvere altri grossi problemi, grandi temi che riguardano il nostro futuro comune, come il clima, la salute, l'incremento demografico. Questi sono i grandi problemi che oggi devono risolvere i nostri politici. E in un certo senso hanno ragione quando investono il loro tempo e le loro energie e le loro idee verso i problemi emergenti. Nelle linee che voi indicate di una possibile politica culturale del futuro, voi sottolineate molto l'importanza delle scelte individuali. Come si può raggiungere questo obiettivo? Penso che il risultato si possa ottenere cercando di avvicinare le istituzioni culturali ai consumatori. Devono cercare di attirare più persone. Con questo non voglio dire che devono diventare commerciali o trasformarsi in organizzatori di concerti pop, ma devono cercare di accettare di più quelle che sono le esigenze della gente. Devono cercare di arrivare a un grado di autofinanziamento o quantomeno arrivare a farlo per il 30 o 40%. Questo li porterebbe più vicini al pubblico e ai bisogni sociali delle nostre nazioni. In secondo luogo, noi sosteniamo che probabilmente bisognerebbe ridurre il numero delle istituzioni sociali e valorizzare di più quelle che rimangono. Il problema è che noi assistiamo a un'inflazione delle produzioni culturali. Siamo circondati da libri, film, opere teatrali e quant'altro si possa immaginare. E nessuno è più in grado di giudicare quali siano i più importanti e quali siano le opere d'arte realmente di valore. Penso che se si riducessero i sussidi alle produzioni, si darebbe più valore a quelle che rimangono. Oggi la scelta individuale è lasciata alla gente. Gente che in ogni caso deve poter fare le proprie scelte. ma dobbiamo accettare il fatto che non tutti amano l'opera e che non ci sarà mai un momento in cui tutti ameranno l'opera o i film impegnati che vengono prodotti in Europa. E quindi? Dobbiamo inventarci sistemi che permettano a tutti i gruppi sociali, e con l'immigrazione massiccia che c'è in Europa, abbiamo società sempre più diverse, di produrre le proprie espressioni artistiche, al di là di ogni scala di valori europea standardizzata. Nel vostro libro voi non escludete affatto che lo Stato o il Comune si debbano occupare della cultura anche attraverso dei finanziamenti pubblici. Ecco, ma per fare che cosa, secondo voi? Il ruolo dello Stato e l'importanza di questo intervento pubblico in campo culturale è duplice. Da una parte, gli Stati sono in qualche modo obbligati a proteggere la propria eredità culturale, ma non c'è bisogno che lo facciano in modo così dispendioso come avviene oggi. Ci devono essere sempre meno istituzioni, ma ci devono comunque essere teatri e musei per proteggere quelle che sono state le nostre identità e per mostrare a noi e ai nostri figli quali erano i nostri valori. In secondo luogo, gli interventi pubblici non devono incoraggiare le imprese culturali, devono invogliare le persone a diventare creative per proprio conto, senza dipendere vita natural durante dai sussidi pubblici. È importante che si dica: ok, sei creativo, hai delle buone idee, ti diamo una possibilità per 5 o 10 anni, ma tra 5 o 10 anni dovrai cavartela da solo. Questo dovrebbe essere il ruolo dello Stato, dare una spinta, far partire i progetti, ma poi lasciare che sia la società a decidere cosa sopravvive e cosa deve sopravvivere. Thank you, Mr. Pius Knüsel. Have a good Sunday. Thank you. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Oggi è la giornata della memoria, nella quale il mondo fa appunto memoria della Shoah. E allora vi segnalo diversi titoli che in questa ricorrenza meritano di essere ricordati. Alcuni, fra l'altro, sono di altissimo valore letterario, come il primo di cui vi parlo, che è il diario 1941-43 di Epti Illesum, pubblicato da Adelphi. 922 pagine, 35 euro, tradotto da Chiara Passanti, Tina Montone e Ada Vigliani. La scrittrice apparteneva a una famiglia olandese di origine ebraica, quindi riecheggia un po' il destino di Anna Frank. La madre era una russa, la cui famiglia si era a sua volta rifugiata in Olanda per sfuggire ai pogrom d'inizio Novecento in Russia. Lei aveva studiato giurisprudenza, aveva blandamente militato in movimenti studenteschi di sinistra e iniziato, dopo la laurea, a studiare lingue orientali. Decisivo nel percorso della sua vita fu l'incontro con uno psicochirologo di scuola junghiana, uno studioso cioè che univa la psicoanalisi con la scienza della lettura della mano. La Illesum venne folgorata da questo personaggio e probabilmente su consiglio suo cominciò a tenere un diario, che è appunto l'opera che vi sto segnalando. L'opera si interrompe il 12 ottobre del 1942, poco più di un anno prima della morte che sarebbe occorsa ad Auschwitz nel 1943. E il diario si conclude con le parole che vi voglio ricordare: si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite, e poi, scritto tutto in maiuscolo con tre punti esclamativi, bisogna saper accettare le proprie pause. A differenza del diario di Anna Frank, questo della Illesum fu pubblicato soltanto nel 1981 ed emerge da queste pagine un personaggio di straordinaria forza e sensibilità. Tra l'altro, la Illesum rifiutò sempre qualunque possibilità di mettersi in salvo perché diceva di voler condividere il destino del suo popolo. Una sopravvissuta ad Auschwitz è A7666, come era stata marchiata Indi Rothbart, che con Pnea Goldstein ha scritto il libro La ragazza di Siget, da Auschwitz alla California, una storia di speranza, pubblicata dalle Paoline, 300 pagine, 17 euro, tradotto da Aldo Villagrossi. La donna sopravvive dunque al campo di sterminio e affronta poi anche il regime comunista del suo paese, la Romania, dal quale poi riesce a fuggire nel 1949 per rifugiarsi appunto negli Stati Uniti, dove comincia un'intensa opera di divulgazione presso le scuole degli orrori che aveva vissuto nei campi e delle persecuzioni agli ebrei. E qui nel libro rievoca l'esperienza drammatica di Auschwitz e poi gli anni dell'impegno americano, segnato anche dal trauma della collaborazione magari inerte di troppa gente con i nazisti. Scrive infatti l'autrice: i nazisti saranno stati anche gli architetti di questo massacro, ma dobbiamo considerare anche il fatto che non possono esserci stati spettatori innocenti. Gli europei non furono innocenti, erano lì. Hanno coadiuvato con il loro silente consenso le torture, i genocidi, i rapimenti e la distruzione di una parte dell'umanità. Per la verità, qualche europeo che si ribellò ci fu, per esempio Oskar Schindler, che ritroviamo in un libro di Marco Ansaldo. Marco Ansaldo è stato il primo italiano a essersi immerso nell'archivio dell'Olocausto, che contiene i documenti redatti dai nazisti con precisione e burocrazia quasi maniacale, e che rispecchia ogni aspetto della Shoah. L'archivio comprende 26 km di scaffali con oltre 30 milioni di documenti ed è custodito a Bad Arolsen in Assia. L'archivio è stato aperto agli studiosi solo da pochi anni, dal 2007. Accostandosi a queste carte, Ansaldo trova la copia finale della lista di Schindler, tra i quali individua un nome, quello dell'unico italiano compreso tra questi nomi, cioè Schulin Vogelmann, internato a Milano, era partito dal famigerato binario 21, era stato internato ad Auschwitz e poi rientrò a Milano nel 1945. Vogelmann si era salvato perché tipografo e adibito, lui che pure era un uomo onestissimo, a partecipare al progetto con il quale i tedeschi volevano far esplodere l'economia inglese inondando il mondo di sterline false. La sua avventura dà il titolo a questo libro di Marco Ansaldo, Il falsario italiano di Schindler, I segreti dell'ultimo archivio nazista, pubblicato da Rizzoli, 278 pagine, 18 euro. Vogelmann rientra in Italia, riprenderà il suo lavoro, anzi diventerà editore acquisendo la casa editrice presso la quale aveva lavorato, cioè la Giuntina di Firenze. Ma non si parla nel libro soltanto di lui. Qui troviamo appunto una documentazione con carte particolari inedite sulla tragica esperienza della Shoah e si parla anche di Schindler, di Anna Frank, di René Miroschi, di Primo Levi, dei Finzicontini e anche di Mike Bongiorno, anch'egli coinvolto in quell'orrore dalla parte delle vittime. Crollato il nazismo, la piaga dei campi restò aperta, soprattutto per il gran numero di responsabili della Shoah che erano riusciti a mettersi in salvo. Il caso forse più eclatante fu quello di Adolf Eichmann, il regista dell'Olocausto, catturato nel 1960 in Argentina dai servizi segreti israeliani e condannato a morte dopo un lungo processo che fece discutere anche per le riflessioni suscitate al proposito dalla filosofa Anna Arendt, che aveva partecipato come osservatrice al processo e aveva rivolto a questo proposito delle critiche al governo israeliano. Sul caso torna ora un libro di uno storico diplomatico israeliano, Sergio Minerbi, che si intitola La belva in gabbia, Eichmann, i delitti, il processo e la condanna, è pubblicato da Lindau, 278 pagine, 23 euro. Del processo ad Eichmann, Minerbi era stato testimone quotidiano perché commentava per la radio e la televisione italiana appunto le vicende di quel procedimento giudiziario. E dunque il suo libro ci permette di entrare nella cronaca e nel dibattito processuale con tutti i particolari dell'accusa e della difesa di Eichmann, che cercò sempre, come ricorderete, di sminuire sempre le proprie responsabilità. A un certo punto Minerbi scrive: Eichmann sta per divenire ai nostri occhi il genio della mimetizzazione. Naturalmente nel libro l'autore non sposa le tesi della Arendt, anzi polemizza con la filosofa accusandola di aver sposato la tesi di un sostanziale collaborazionismo degli ebrei con i nazisti, una tesi che gli giudica assurda e che l'Arendt avrebbe sposato in odio verso il cosiddetto nazionalismo di Israele. Una ricostruzione della missione che portò alla cattura di Eichmann troviamo nel libro di Michael Bar Zohar e Nissim Mishal. Il primo è uno scrittore ed esperto di spionaggio, secondo un giornalista, entrambi israeliani, che si intitola Mossad, pubblicato da Feltrinelli, 352 pagine, 20 euro, tradotto da Francesco Peri, e il libro, come recita il sottotitolo, presenta le più grandi missioni del servizio segreto israeliano e ripercorre appunto gli episodi più drammatici di cui quel famoso servizio segreto è stato protagonista, fino al ruolo che il Mossad sta giocando in questi anni nel grande confronto con l'Iran sul riarmo atomico di quel paese. E adesso un romanzo che è ambientato nei campi ed è quello di Francesco Roat, I giocattoli di Auschwitz, pubblicato da Lindau, 292 pagine, 19,50. Questa è la storia di Ruben, che verrà per così dire adottato da un ufficiale delle SS, il quale viene colpito dal talento musicale del piccolo. Naturalmente la condizione invidiabile in cui vivrà il lager non lo mette al riparo da orrori e da traumi che si riconcilieranno molti anni dopo, grazie anche alla riscoperta della musica attraverso il clarinetto e attraverso in particolare questo brano di Brahms di cui ascoltiamo poche note. Un'altra testimonianza letteraria è quella di Goran Rosenberg, Una breve sosta nel viaggio di Auschwitz, pubblicato da Ponte alle Grazie, 356 pagine, 15,80 euro, tradotto da Alessandro Bassini, l'autore svedese, e parla di suo padre, un sopravvissuto ai campi, David, di origine polacca, che si era appunto ricostruito una vita in Svezia. Il figlio va alla ricerca dei particolari della vita del padre, vuole ricostruire in particolare l'impatto con la nuova vita segnata irreparabilmente dal destino tragico del passato recente. Il figlio perciò va alla ricerca di ogni minimo frammento del passato per ricostruire la vicenda del padre. A un certo punto scrive: le date precise non contano niente nel tuo viaggio, rivolgendosi al padre, contano solo per me. Sono io ad averne bisogno, sono io ad avere bisogno di ogni frammento che si riesce a reperire per fare in modo che tu non debba sparire lontano da me. E a questo punto... Il confettino. Concludo con un omaggio alla cultura ebraica, con un libro di Matteo Corradini e Grazia Nidasio, Alfabeto ebraico, storie per imparare a leggere la meraviglia del mondo. È pubblicato da Salani, 96 pagine, 18,90 euro. Da Aleph a Tav, per ogni lettera dell'alfabeto, troviamo una descrizione, per così dire filologica, oltre che una piccola storia e naturalmente il carattere grafico della lettera. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. E il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.